Colossesi, capitolo 4. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie, pregando in pari tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, onde possiamo annunziare il mistero di Cristo, a cagione del quale io mi trovo anche in prigione, e che io lo faccia conoscere parlandone come debbo. Conducetevi con saviezza verso quelli di fuori, approfittando delle opportunità. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Tutte le cose mie ve le farà sapere Tichico, il caro fratello e fedele Signore, mio compagno di servizio nel Signore. Ve l'ho mandato appunto per questo, affinché sappiate lo stato nostro, ed egli consoli i vostri cuori, e con lui ho mandato il fedele e caro fratello Onesimo, che è dei vostri. Essi vi faranno sapere tutte le cose di qua. Vi salutano Aristarco, il mio compagno di prigione, e Marco, il cugino di Barnaba, intorno al quale avete ricevuto degli ordini. Se viene da voi, accoglietelo. E Gesù, detto giusto, i quali sono della circoncisione, e fra questi sono i soli miei collaboratori per il regno di Dio, che mi sono stati di conforto. Epafra, che è dei vostri e servo di Cristo Gesù, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere affinché, perfetti e pienamente accertati, stiate fermi in tutta la volontà di Dio. Poiché io gli rendo questa testimonianza, che gli si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Gerapoli. Luca, il medico di letto, e Dema vi salutano. Salutate i fratelli che sono in Laodicea, e Ninfa, e la chiesa che è in casa sua, e quando questa epistola sarà stata letta fra voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi, e anche voi leggete quella che vi sarà mandata dall'Odicea. E dite ad Arcippo, bada al ministero che ha ricevuto dal Signore per adempirlo. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Ricordatevi delle mie catene. La grazia sia con voi.